Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Gli istruttori ci recuperano uno ad uno e ci stanno sul motoscafo. Torniamo in porto, ci dicono: bene, avete imparato il significato della parola scuffia. Scuffiare significa ribaltarsi con la barca a vela. Sono Edoardo, vivo a Vercelli e sto per laurearmi in giurisprudenza a Ferrara e ogni tanto torno a casa per dare una mano nell'azienda di famiglia perché coltiviamo riso. È il 10 dicembre, la mattina intorno alle 6, l'Aliseo non stabile ha il suo massimo shift a destra. Strambo per avere una rotta tra 220 e 240 gradi. Il vento rinforza, la situazione è un po' disordinata. Diverse celle temporalesche, del tutto simili a dei fronti, rendono la navigazione complicata e il mare ed il vento abbastanza caotici. La meteo annuncia Code Orange, che tradotto significa un bel casino. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, oggi fuori dagli studi del Sole 24 Ore e di Radio 24 in via Monterosa 91, siamo nella splendida cornice del Salone Nautico di Genova, e dico splendida perché c'è un cielo terso meraviglioso, c'è un sacco di gente che gira, che non si capisce mai. Parlo con Michele Previato e Davide Ciocia che sono qua con me in questo acquario splendido. Un acquario da cui sono nautico di Genova. Non si capisce se la gente che è qui sono tecnici, cioè gente di porto, gente di mare, o gente molto ricca invece che va in giro e dice: quanto viene quella? 3 milioni, buono, dai, dammene due. 349-238-6666 è il numero per mandare gli sms in diretta a questo programma, altrimenti abbiamo un profilo Facebook che è sempre quello, anche da qui, anche dal Salone Nautico, che voi siete qui, Radio 24. Oggi raccontiamo una storia particolare, che è la storia di Edoardo. È particolare perché parla di mare e parla nella fattispecie di vela e ancora più nella fattispecie di derive, che sono, avete presente quelle barchine piccole che vedete di solito in giro, che hanno lo stesso modo di navigare delle barche grandi, solo che hanno una caratteristica, che le barche grandi stanno sempre in piedi, quelle piccole no, quelle piccole delle volte si ribaltano, e quella cosa lì, quella roba lì del ribaltarsi, si chiama letteralmente scuffia. Se lo sapete, se non lo sapevate l'avete imparato, se invece lo sapete magari vi è capitato, 349-238-6666, la prima scuffia, sto per dire la banalità, Non la dico Michele, lasciamo, ciao, non la dico, però la prima scuffia ti rimane impressa sostanzialmente, quindi se avete voglia di raccontarcela i numeri sono sempre quelli, 349-238-6666. Ricordiamo che c'è sempre il fedelissimo orologio di Davide Ciocia che ci accompagna nelle esterne, senza il quale noi saremmo morti perché andremmo alla cieca, cioè non sapremmo quale ora, a quale, cioè Bonini mi direbbe chiudi a 16:29:30, io direi boh, c'è l'orologio che è in ritardo di due minuti, invece no, Ciocia ci accompagna ad ogni esterna. Vi ricordo anche che noi siamo qui in diretta oggi e fra poco vi racconto la storia di Edoardo, ma siamo qui domenica alle 17 in punto in uno spazio che è qua dietro, chiedo a Elisa, Elisa giusto? È qua dietro, Elisa Piras, vede dove? È qua dietro lo spazio dove andiamo in onda domenica, giusto? Che detto a te tra l'altro è comprensibile per tutti, è uno spazio qua all'aperto in cui racconteremo 10 storie di mare che ci sono arrivate a voi siete qui @radio24.it e di cui vi ho letto proprio una piccola parte in apertura di questa puntata, quella tra l'altro è una storia particolare perché è una storia di mare seria, perché è una regata d'altura e ce l'ha mandata Andrea Jacopini. Se fate una ricerca scoprirete che lui è uno che si è fatto la Mini Transat, che per chi sa che cos'è, bene, chi non lo sa ce lo va a cercare. Comunque è una regata oceanica. Ma torniamo alle barchine, torniamo all'esperienza che forse prima o poi avete fatto nella vita. Siete giovani e dite, o vi dicono, fai un corso di vela, e voi dite perché no? Questa è la storia di Edoardo. Un bambino pigro, esattamente il contrario di un bambino iperattivo. Non chiedevo ai miei genitori di andare a calcio né a tennis e men che meno che a nuoto. Figurarsi una disciplina che prevede l'inevitabile circostanza di bagnarsi. Non scherziamo. Io stavo benissimo asciutto, in camera mia a giocare con il meccano o in cortile a immaginare battaglie a colpi di super boom fra cowboy padani e indiani immaginari. A me non serviva nient'altro. Niente mister, niente scivolate sulla terra rossa, niente spogliatoio odoranti di cloro. Non chiedevo a nessuno di prendersi la briga di gestire il mio tempo libero. Me la cavavo benissimo da solo. Ecco perché trasalì quando mia mamma mi comunicò che quell'estate avrei fatto un corso di vela. Ero stato iscritto a tradimento, Ovviamente me lo avessero chiesto avrei detto che non mi interessava, ma tutto era già stato deciso. Saremmo stati una settimana al mare, dai nonni, e sarebbe stato nostro ospite Stefano, il mio compagno di scuola. Probabilmente una settimana con due bambini di 9 anni in giro per casa aveva allarmato gli adulti che erano corsi ai ripari, iscrivendoci ad un corso di vela a Rapallo. Io non ero assolutamente d'accordo, ma visto l'entusiasmo del mio amico Stefano per questa bella novità, mi sembrava da pivelli fare un capriccio per dire che no, io non ero affatto entusiasta di quella scelta. E quindi mi finsi lieto. Non ero mai stato in barca a vela prima, non avevo paura particolarmente del mare, diciamo che non mi piaceva tanto il fare il bagno al largo, quindi quando non si vede il fondo, ecco, quello mi inquietava un po'. C'erano a Rapallo due scuole di vela. Una seguiva il metodo tradizionale, cioè era una scuola di vela storica, gli istruttori avevano un maglioncino bianco e parlavano con la tipica inflessione ligure. L'altra scuola, invece, seguiva un metodo alternativo ed era tenuta da due istruttori di origine tedesca che conservavano perfettamente il loro inquietante accento germanico. Noi, ovviamente, finimmo dai tedeschi. Mentre i bambini della scuola tradizionale seguivano la prima lezione di teoria in aula, noi spingevamo già in acqua le barchette, che ai miei occhi apparivano poco più grandi di un guscio di noce, per il nostro battesimo del mare. È molto semplice. Quando spingo il timone in là, orza. Quando tiro il timone in qua, poggia. Orza, poggia, orza, poggia. È semplicissimo. Io e Stefano saremmo saliti sulla stessa barchetta, io al timone, lui a gestire la vela, o meglio, la randa. Un pochino irrigidito dalla mia mai del tutto confessata paura per il mare aperto, le acque profonde, le meduse, gli squali e i tedeschi, timonai quel guscio di noce fuori dal porto, mentre gli skipper germanofoni ci seguivano in motoscafo urlando indicazioni per aiutarci a perfezionare la tecnica che avevamo imparato ormai 7 minuti prima. Vinte giorno dopo giorno le paure per il mare aperto, le acque profonde, le meduse e gli squali, quella verso i tedeschi invece si stava acutizzando, acquisì una certa sicurezza al timone. Stefano manovrava la randa con disinvoltura e ci pareva ormai chiaro che da grandi non avremmo potuto fare altro che i velisti. Iniziavamo a divertirci, tanto che quando una mattina, appena alzati, vedemmo il cielo grigio e il vento tormentare le foglie degli ulivi che crescevano intorno a casa dei nonni, rimanemmo male pensando che non ci avrebbero portato in mare. Giunti al porto, vedemmo la scuola tradizionale che faceva la sua bella lezione teorica. Loro erano tutti seduti con il kiwi bello allacciato e ascoltavano lo skipper ligure, mentre sullo sfondo si vedevano le crestine bianche di spuma sulle onde. Quando c'è la crestina bianca è meglio non fare il bagno, diceva sempre mia nonna. Giunti davanti alla sede della nostra scuola non vedemmo nessuno. Ci voltammo verso il porto e sentimmo la voce del nostro istruttore che diceva: «Presto voi due, venite ad aiutare i vostri colleghi, mettiamo in acqua le barche!» Saremmo usciti con quel meteo? La risposta era sì, saremmo usciti. Nonostante il vento, il cielo grigio, il mare agitato e un freddo che nemmeno sembrava di essere in estate. Mentre l'istruttore spingeva con un piede la nostra barchetta verso il largo, iniziò anche a piovere. «Forza Pampini, ormai sapete come si fa! Orza poggia, orza poggia!» Le onde sollevavano il nostro guscio di noce come non era mai successo in quei giorni. Non ero abituato a tutti quegli ondeggiamenti, ma cercavo di fare il mio lavoro con il timone. La pioggia iniziava a riempire lo scafo e le scarpe erano zuppe d'acqua. Fino a quel giorno, fino a quel momento preciso in cui cominciavano ad alzarsi le onde, non era successo nulla di spaventoso e pensavo che la vita in mare potesse in fondo essere anche una cosa divertente e tranquilla. E in quel momento ho avuto seriamente paura, ecco, non ho timore a dirlo, a confessarlo. Eravamo quasi fuori dal porto quando, mentre scrutavo l'orizzonte per capire dove si dirigesse il motoscafo degli istruttori, sentii un tuffo in acqua. Mi voltai. Stefano, il mio compagno, era in acqua. «Scusa, non riuscivo più a manovrare la vela!» Non feci in tempo ad ascoltare la fine di quella giustificazione assurda per il gravissimo abbandono della nave, che un'onda sollevò la barchetta. Il vento riempì la vela, che ormai priva di un padrone, fece sbandare paurosamente il boma, e per evitare che mi colpisse in faccia, mi scostai e la barchetta si ribaltò. Ero sott'acqua. Sembrava calda, tanto era freddo fuori. Cercai di riemergere, ma non riuscii. La mia testa sbatteva contro la vela, appoggiata sul pelo dell'acqua, e non riuscivo a prendere aria. Il panico mi travolse. Ero sott'acqua e sotto la vela. Maledetto corso, maledetti tedeschi, maledetto mare. Lo sapevo io che il meccano era più sicuro. Al terzo tentativo trovai una via di fuga, riemersi e respirai. Intorno a me altri bambini galleggiavano nei loro giubbotti salvagente. Qua e là i gusci di noce capovolti sembravano i resti di un naufragio. I tedeschi ci recuperarono uno ad uno e ci issarono sul motoscafo. Tornammo in porto e gli istruttori ci dissero: «Avete imparato il significato della parola scuffia. Scuffiare significa ribaltarsi con la barca a vela. Voi avete tutti scuffiato oggi». E poi risero. Io non risi tantissimo. Mi risollevò soltanto un'abbondante porzione di focaccia di recco. Oggi ammetto ho meno paura dei tedeschi e conservo invece quella per il mare aperto. Ho dimenticato i rudimenti dell'andare a vela, ma potete starne certi. Non dimenticherò mai il significato della parola scuffiare. Fishing boats sail past the shore. No singing, May Day anymore. The sun is shining, the water's clear. Just you and I walk along the pier. Lift my soul. Ecco, a me piacerebbe tanto raccontarvi la foto di Edoardo, però in questo momento c'è la foto scattata qua allo stand di Radio 24 sul sito sulla nostra pagina, in cui tra l'altro c'è Michele Previato in una posizione abbastanza assurda. Andate a vederlo perché è ufficialissimo. Però l'ho vista prima la foto di Edoardo, perché c'era, e poi me lo ricordo perché Edoardo ha già mandato una storia, ha su degli occhiali da sole, ha su una maglietta rossa e ha la bella faccia di un ragazzo che una volta nella vita ha scuffiato. Pronto Edoardo? Ciao Matteo, pronto? Ciao, buongiorno, come stai? Bene, bene, complimenti per il tuo tedesco. No, ecco, infatti bravo che l'hai detto. Io volevo chiedere scusa a tutti gli imitatori di Papa Ratzinger perché sembravo veramente la brutta copia di quando c'era il ormai deposto, non deposto, Simone Spezia, come si dice? C'è Spezia lì che sta facendo i fatti suoi fuori dallo stand. Dice, ma che vuoi? Come si dice il Papa? Il Papa Ratzinger com'è? Papa deposto? Non lo sa neanche Spezia, ma chi se ne frega. Edoardo, andiamo avanti noi. Tu ci hai mandato un altra storia, ricordamela, era quella di un cammino, no? Del cammino avevamo parlato noi. Sì, era quella della bicicletta del nonno. Della bicicletta, della bicicletta del nonno, perfettamente. Poi insomma ogni tanto ci siamo sentiti, so che tu fai dei cammini, vai, poi insomma scrivi delle cose anche al riguardo. Dove sei stato l'ultima volta? L'ultima volta sono stato sul cammino tra il Tirreno e l'Adriatico, abbiamo attraversato l'Italia per il lato corto. Che è la via, come si chiama? Ha un nome quella via? È la linea gotica. Ah, ok, banalmente, la linea gola che divide a metà il paese. Veniamo invece ai tedeschi e a Rapallo, giusto, è la location? Sì, sì, eravamo a Rapallo, sì. Quanti anni avevi, Edoardo? Ne avevo giusto 9-10 al massimo, sì. Ah, ma eri piccolissimo, ma erano degli sconsiderati tuoi a mandarti a fare un corso di vela con dei tedeschi fricchettoni che ti mandano in acqua dopo 7 sì, minuti, sì. Anzi... Sì, no, dico, infatti me lo ricordo molto bene ancora adesso, cioè un ricordo molto nitido proprio perché ero abbastanza piccolo, diciamo. Il tuo amico, scusami, mi ero perso perché mi hanno detto che la foto, eccola qua, c'è la tua foto comunque, è nella pagina della puntata, ci sei col tuo bel felpone rosso. Il tuo amico lo senti ancora o ti odia da quel giorno dopo essersi tuffato in acqua? No, anzi, credo che sia all'ascolto, quindi ne approfitto per salutarlo. Non hai più messo piede su una barca, mai più? Sinceramente no, mai più, no. Mai più. Benissimo, quindi diciamo questa puntata dal Salone Nautico l'abbiamo scelta proprio apposta perché volevamo in qualche modo convertirti. Edoardo, però se domenica non hai nulla da fare, non hai cammini, ricordami dove abiti, a Torino? No, mi sbaglio? Vercelli, vabbè, insomma, siamo da quelle parti. Intanto Simone Spezia mi ricorda che Papa Ratzinger è emerito, grazie Simone, si è ripreso anche lui. Se sei da Vercelli a Genova non ci metti tanto, se hai voglia noi facciamo una sorta di live qui alle 17 in punto in cui raccontiamo altre storie di mare, di gente che ha un briciolo più di esperienza di te, Edoardo, devo dire. Giusto un po'. La mia esperienza si è fermata quel giorno là, però senti, invece c'è l'occasione per riprendere adesso facendo un giro al salone. Bravo, noi alle 17 siamo qua. Prima di chiudere raccontami invece cos'è successo da quando ci siamo sentiti l'ultima volta ad oggi, cosa fai nella vita, come si è sviluppata la tua esistenza? Allora, la mia esistenza si è sviluppata tra un esame e l'altro fino a giungere a un passo della laurea, quindi sto scrivendo la tesi. E impegni psicoatletici, so che è una parola difficile, però è proprio quella che descrive il mio modo di camminare insieme a Enrico Brizzi, eccetera. E poi basta, sono qui a Vercelli perché comunque mio papà è risicoltore, quindi quando posso gli do una mano in risacca. Ah, quindi frequenti le risacche col trattore? Sì. Guidi il trattore, ma guidi quei trattori, quelli con i spuntoni al posto delle gomme, come si chiamano? Sì, con le ruote di ferro, quando c'è con le ruote di ferro che sembrano delle enorme corone delle biciclette. Esattamente, sì. Beh, non è una roba facile da fare quella. No, ma devo dire che sono comunque ancora le prime armi, anche in quello la mia esperienza è un po' più della barca a vela, però siamo lì. Stai maturando in tutto. Edoardo, ti ringrazio per la storia, per la chiacchierata. Se hai voglia, noi siamo qui domenica alle 17. Ciao, in bocca al lupo. Volentieri, grazie, un saluto, ciao. Ciao, grazie, ciao. E insomma, alla fine, dalla storia di Edoardo, ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, i metodi tradizionali sembrano preferibili, ma in realtà non lo sono. Secondo, se i tedeschi non sono noti per essere grandissimi navigatori, forse un motivo ci sarà. Terzo, se il tuo equipaggio ti molla tuffandosi in acqua, forse conviene fare lo stesso. Quarto, prima di sapere cos'era una scuffia, pensavo fosse una cotta molto molto forte per una ragazza. E quinto, qui al Salone Nautico di Genova tutti, sono sicuro, hanno scuffiato almeno una volta. Io ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa puntata, in primis chiaramente Michele Previato, che potete trovare nella foto sul nostro sito alla nostra pagina, Davide Cioccia che lo sta imitando in questo momento da Milano, invece soprattutto ringrazio Tiziano Bonini, ringrazio Paolino Corleoni, ma soprattutto Miriam che è arrivata oggi, Miriam Lucchetti che diciamo sostituisce degnamente ovviamente Margherita Ina e che comincia questa avventura oggi con noi. Leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati, a parte che tutti mi scrivono Ratzinger e Papa Emerito. Era il 25 di aprile, mi scrive Isabella. Tempo incerto, freddo cane, lago gelido, muta corta. In barca con il prof, immagino fosse l'istruttore più che il prof, cioè andare in barca con il prof o il tuo fidanzato o stai facendo una gita scolastica. In barca con l'istruttore abbiamo scuffiato per un suo errore. Su un'altra barca due suoi ex studenti lo prendevano in giro e credo lo prendono in giro ancora adesso. Io vi ricordo che siamo qui domenica alle 17, venite al Salone Nautico, se siete da queste parti passate a salutarci, alle 17 raccontiamo storie di mare. Grazie soprattutto a Edoardo, la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Gaspare, vivo a Palermo e la storia di domani è la mia. Parla di un viaggio speciale e di un incontro speciale. Questa è la mia storia e io sono qui.